Mercanti, dite la parabola delle vergini stolte e delle vergini savie, disse il professore di religione. La mercante si alzò un po' straccamente, un po' ridendo, un po' tossendo, mostrando i denti, a cui mancava proprio un incisivo, e rispose: Professore, sapete, stamane ho ascoltato la vostra messa. Il pretonzolo Pagliuca, nero nero di faccia, con gli occhiali, sorrise come lusingato. Dite la parabola, insistette. Professore, perché dite la messa così ad alta voce? Domandò l'altra, un po' sfacciatella, col viso pallido e gli occhi già troppo maliziosi. Egli spiegò perché parlò della messa. Le ragazze lo ascoltavano, ridacchiando fra loro. Era un pretarello tutto storto e bruno, che spiegando la lezione faceva una quantità di gesti ridicoli a proposito di Mosè o di Cristo. Le ragazze non lo potevano prendere sul serio. Donna Rumma, dite la parabola. Professore, scusate, ho prima da esporre una difficoltà. È vero quello che dicono i miscredenti, che Gesù sia stato troppo indulgente perdonando la Maddalena? Egli fece una faccia scandalizzata sulla seggiola, marcò le sopracciglia e cercò di giustificare il perdono di Gesù alla Maddalena, ma quelle fanciulle, certe specialmente, pareva non si convincessero. Lo guardavano coi loro occhi furbi e increduli. Egli sentiva l'ironia di quegli sguardi. Ci si irritava, strillava che non era decente porre in dubbio i fatti della religione. Donna Rumma, la grande giovanotta di Castellammare dagli occhi di Giovenca, un po' confusa, disse la parabola. Si vide alle spalle Carolina Mazza suggerirgliela tutta leggendola nel libro, ma fu peggio. Quel racconto delle vergini che aspettavano lo sposo con le lampade accese per entrare con lui a fargli scorta eccitava quelle curiosità, eccitava i commenti di quelle ragazze già grandi, alcune venute su dalla strada, che vedevano e sentivano tutto, il bene e il male. Luisetta d'Este, Artemisia Iaquinangelo, Concetta Stefanozzo, la donna Rumma, la Mercanti, la Mazza, il gruppo cosiddetto delle spregiudicate, ci si divertiva assai alla lezione di religione. Esse, le sfacciatelle, preparavano una quantità di domande insidiose per confondere il professore, per non recitare la lezione. Egli si lasciava prendere, restava un po' interdetto a quei soggetti scabrosi e si ingarbugliava in una quantità di frasi. La classe intera era presa da un solletico di risa. Giusto dopo la lezione di Estrada, era rimasto nella classe un gran soffio profano, una fantasia di visioni amorose, uno scuotimento di nervi alla strana parabola delle vergini che ha bisogno di un'altissima spiegazione mistica. Le ragazze si guardavano fra loro con certi sorrisi pieni di sottintesi ed era uno stirarsi di facce per comprimere il riso, un sollevar di libri all'altezza delle labbra per nascondersi, un curvarsi sul banco come per cercare un oggetto. Il professore guardava tutto, insospettito, con quel suo viso antipatico, cercava di afferrare qualche cosa in quel mormorio di risate che cresceva. E solo il gruppo delle sante, il gruppo mistico, le due sorelle Sant'Aniello, Annina Casale, la Pessenda, la Scapolatiello, la Borrelli e Maria Valente, si mostravano severe e scandalezzate. Queste ragazze, o molto infelici, o molto intelligenti, o molto povere, erano prese da una dolce follia religiosa mal repressa. Ogni mattina si riunivano nella chiesa di Santa Chiara prima di entrare in classe e pregavano per un'ora. Scrivevano su tutti i compiti le iniziali GM, i nomi di Gesù e di Maria, si scambiavano rosari, amuleti, coroncine, immagini di santi colorate. Ogni domenica, per la messa e per il vespero, si davano convegno, ora in una chiesa, ora in un'altra. Seguivano tutti i tridui, tutte le novene, tutti gli ottavari nelle ore di libertà. Scrivevano delle frasi religiose a margine del trattato di geografia e delle orazioni nei quaderni della geometria. Si chiamavano sorelle fra loro, formavano il gruppo opposto alle spregiudicate e si disprezzavano a vicenda. Le sante più taciturne e più indulgenti, le spregiudicate più ciarliere e più insolenti. Isabella Diaz, dite la lezione di catechismo. La bruttissima si levò e parlò dei sacramenti pian piano, con quella poca voce che aveva, e Un tremito le faceva muovere le labbra. Le mani giallastre, sempre un po' umide, erravano sul banco. Del resto, quella piccola figura scarna, dal seno piatto nel vestito vecchio, parlava dei sacramenti con tanta vera pietà, con una umiltà di interpretazione tanto cristiana che le mistiche si erano rivolte ad ascoltarla, tutte intente. Il pretonzolo scuoteva il capo da destra a sinistra come ad esprimere la soddisfazione scimmiottesca e Isabella Diaz continuava a dire il velo di mistero in cui si avvolgevano i sacramenti e il senso che essi esprimevano. Ma al settimo, il matrimonio, le spregiudicate ricominciarono a mormorare, a ridacchiare, a urtarsi col gomito, a fare smorfie per non ridere. E la voce acuta di Luisetta d'Este chiese: «Professore, scusate, che rappresenta misticamente il sacramento del matrimonio?» Il direttore, professore di scienze fisiche e naturali, immerse la mano magra, come quella di una donna, nella urna scatolina di cartone e ne trasse un rotoletto di carta. «Iudicone», disse lui schiudendo il rotoletto. «La decuriona?» Impallidì leggermente, ma cercò di ridere e si levò per dire la lezione. «Venite sulla cattedra, spiegherete così la macchina, praticamente». Difatti la macchina di Atwood, lunga, sottile, complicata, tutta ottone e acciaio, drizzava sulla cattedra la sua figura di piccola forca. Iudicone vi si pose accanto, grassa, grossa, con la sua bonaria faccia plenilunare, coi suoi fianchi larghi di madre futura, con la sua gola piena e bianca di matrona, e lentamente cercò di chiarire alle compagne quel congegno difficile e delicato per cui si misurano le cadute dei gravi. Con la mano pienotta, dall'indice teso, ella toccava le piccole leve, le ruoticine, i volantini, le mollette dentate. Gli occhi di un dolce color d'olio, pregni di bontà, si fissavano intensamente su quell'ingranaggio metallico, come se volessero estrarne tutta la verità. Ma, dopo 3 o 4 minuti di spiegazione, la voce si andò rallentando. La frase divenne stentata, le parole si imbrogliarono e Iudicone restò taciturna con le braccia abbandonate lungo la persona, guardando la macchina, con gli occhi pieni di desiderio e di dolore. Non era arrivata neppure a descriverne una terza parte. Il professore si carezzava la barbetta bionda con un moto nervoso che gli era abituale e un po' di impazienza, un po' di collera gli si ammassava nell'animo buono e paziente di uomo che ha vissuto. A questa importante ma difficile lezione della gravità, a queste leggi sulla caduta dei corpi, a questa indiavolata macchina di Atwood, la classe si era impuntata da una settimana, senza poter andare avanti, confusa, stordita, non intendendo più nulla. Già 3 volte gli aveva rifatta lungamente la stessa lezione, applicando la teoria alla pratica, smontando il congegno pezzo per pezzo, aveva lasciata la macchina in classe perché le alunne potessero esercitarvisi, analizzarla liberamente, ma pareva tutto inutile. Senza dire nulla, Iudicone gli immerse la mano nell'urna e cavò fuori un altro nome. Tutta la classe teneva gli occhi fissi su quel fatale rotoletto di carta, ognuna temeva per sé. La macchina di Atwood era troppo diabolica. Cleofe Santaniello. La piccolina, intelligente, studiosa, lasciò il suo posto dopo aver guardato un'ultima volta il proprio quaderno dove la macchina era disegnata. Iudicone tornò al suo, chinando la faccia nel registro per nascondere il rossore. Cleofe Santaniello contemplò un minuto la macchina, la tastò 2 o 3 volte con la scarna mano di rachitica e cominciò rapidamente, senza guardare in nessun posto per paura di imbrogliarsi. Andò bene per un pezzetto, ma disgraziatamente alla parola incudinetta anteriore udì una voce lieve, quella di sua sorella Lidia, sussurrarle in fretta: «Posteriore, posteriore!» Cleofe si arrestò. Tremò, perdette il filo e non potette più ricominciare. Il suo male nervoso che le impediva di far bella figura in classe mentre lei intendeva tutto e sapeva tutto, la riprese. Il professore la guardò un momento, così piccola e così meschina com'era, forse per pietà non la sgridò, ma la licenziò con gli occhi. Costanza Scalera, chiamata, si levò con la sua aria composta di grande signore e dichiarò francamente che poteva dire tutta la teoria della legge, ma che non poteva fare la descrizione della macchina di Atwood. Il direttore professore si strinse nelle spalle. La bufera silenziosa cresceva, un'immensa mortificazione scendeva su quelle fanciulle, esse provavano una vergogna immensa per la loro stupidaggine, per la loro inesattezza. In fondo esse amavano molto quel direttore, niente espansivo, ma giusto, parco di parole laudative, ma incapace di usar loro un cattivo trattamento. E avevano una grande soggezione di lui e avrebbero voluto contentarlo in tutto e le sue lezioni erano quelle che studiavano di più. Quale scorno per la terza classe, alla quarta lezione non saperne ancora nulla della legge sulla caduta dei gravi. E come passava il tempo, la vergogna e la confusione si dilatavano, crescevano. Due o tre altre salendo su quella cattedra, piazzandosi sotto quella piccola forca di metallo, perdettero la testa per un terrore ignoto, come ci si ammala per paura della malattia. La macchina di Atwood pareva si ingrandisse, si elevasse sul loro capo, pareva che si moltiplicasse nel suo meccanismo di rotelline. Ella pareva acquistasse un'anima metallica e beffarda che si rideva dei tormenti di quelle fanciulle e se la guardavano come un mostro, spaventate. A un certo punto il direttore si fermò, vi fu un minuto profondo, lunghissimo di silenzio, poi egli che non le sgridava mai, che non pronunciava una parola di biasimo, disse lentamente: «Sono assai dolente di quel che accade». L'effetto fu grandissimo. Molte impallidirono. A Iudicone, che era tanto buona, scesero i lacrimoni per le guance. Cleofe Santaniello scoppiò a singhiozzare. L'onore della terza classe era umiliato. Mentre il direttore si alzava per andarsene, Checchina Vetromile, che era una delle migliori, si alzò un po' rossa, con la voce un po' tremante. «Sentite, signor direttore, la colpa non è nostra né di nessun altro. La lezione è difficoltosa, complicata. La studiamo da una settimana senza arrivare a penetrarla. Abbiamo trascurato tutto il resto per questa tremenda macchina. Forse abbiamo fatto peggio perché ci siamo instupidite a furia di ripetere 20 volte la stessa cosa. Se volete, lasciamo per un poco la macchina e andiamo innanzi, la riprenderemo fra una settimana. Vi promettiamo di impararla magnificamente, posso parlare per tutta la classe». Ma l'impressione benefica e pacificatrice di queste parole che la bella e cara creatura aveva pronunciato fu dissipata da una vocetta stridula che esclamò: «Parli per sé, Vetromile, io so la lezione, se il professore vuole io la posso dire». Era Giustina Marangiò. La fanciulla livida, dalle labbra sottili, dagli occhi bianchi. Una meraviglia dolorosa colpì le ragazze per quella defezione, per quel tradimento. Lo stesso direttore aggrottò un po' le sopracciglia come infastidito e Giustina Marangiò salì prestamente sulla cattedra, guardò la macchina di Atwood con un piglio beffardo, con la sua vocetta di lima stridente senza fermarsi mai, senza sbagliare mai, descrisse quel sistema di ottone e di acciaio, minutamente, precisamente, non tralasciando nulla, applicando la teoria alla pratica, girando attorno alla forca, attaccandosi ai più piccoli pezzi di quel meccanismo. Alla fine, quando Giustina Marangiò inclinò la macchina per mostrarla meglio alla classe, gli stese sopra il piccolo pugno chiuso dall'indice teso. E la parve più forte e più malvagia di essa. Per la ricreazione la classe si era votata. Le convittrici erano andate a passeggiare in convitto, le esterne passeggiavano in quel corridoio budello. In tutto non vi erano che 30 minuti di ricreazione, da mezzogiorno alla mezza, per andare su e giù nella penombra in fila di 4 o 5 o in coppia di 2. Qui le simpatie, le amicizie si pronunziavano. Amelia Bozzo era scappata via dal primo corso e passando innanzi a Caterina Borrelli le aveva consegnato un biglietto. Diceva: «Se non mi vuoi bene o impazzisco o muoio». Le sante, in fila ancora tutte contrite dallo scandalo avvenuto durante la lezione di scienze naturali, cercarono di distrarsene parlando della prossima settimana santa e delle commoventi funzioni religiose. Scapolatiello vantava la parrocchia dei Sette Dolori, Valente preferiva Santa Maria della Rotonda, Annina Casale teneva assai alla sua parrocchia della Madonna dell'Aiuto, Isabella Diaz, creatura orrenda, leggeva camminando tutta sola, appena vedendoci in quell'oscurità, un opuscolo religioso intitolato «Fra 100 anni dove saremo?». le Zelanti, la Vetromile, Cleofe Sant'Aniello, Giuseppina Nobilone, De Sanctis ripassavano, passeggiando, la lezione di aritmetica. Gli ultimi teoremi della radice quadrata. Il professore De Vincentis doveva venire dalla 1:30 alle 3, l'ultima lezione. Le spregiudicate, in 6 o 7, avendo fame, avendo riunite le loro forze finanziarie, riunendo 15 soldi e con molte preghiere, avevano convinto Rosa, la bidella, a comprar loro 8 soldi di pane, 6 di provola affumicata, una specie di formaggio fresco, tenendosi un soldo per il suo incomodo. Poi, aspettando, Carolina Mazza, malinconica e cinica, cominciò a narrar loro una storiella piccante che le faceva sganasciare dalle risa. E tutte quante, convitrici ed esterne, le sentimentali, le zelanti, le sante, le spregiudicate, respiravano un poco. Dopo la ricreazione avevano un'ora di lavori donneschi. La maestra era docile, compativa quelle del terzo corso, sapeva il carico delle loro lezioni, era di manica larga, le lasciava scrivere, leggere o disegnare, purché poi all'esame presentassero un cucito, un rammendo, un rappezzo bene eseguito. Tutte facevano dei progetti per quest'ora, che era quasi di libertà. Caterina Borrelli voleva rispondere una lunga lettera alla sua amica Amelia Bozzo. Le zelanti ostinate combinavano di ripetere la lezione di scienze fisiche tra loro, le santarelle contavano di chiacchierare ancora di miracoli e di conversioni e le spregiudicate contavano di far colazione lungamente, tanto che, rientrate alla mezza in classe, mentre la maestra osservava il lavoro di 2 o 3 che avevano lo zelo anche per questo, le altre non rivoltarono neppure la tavoletta del banco dove ci era il cuscinetto di lana verde per cucire. Caterina Borrelli scriveva, Carolina Mazza affettava con un temperino sottilmente la provola affumicata distribuendola equamente. Checchina Vetromile aveva rovesciata la macchina di Atwood quasi per anatomizzarla. Clemenza Scapolatiello aveva rialzata la manica del suo vestito per mostrare alle sue amiche un rosarietto delle anime del purgatorio che portava sempre al braccio, sotto il gomito. In questo sbandamento generale un fruscio si udì. Le due ispettrici, una contessa gobba e zitellona, una marchesa pesante dalle lenti sul naso, entrarono con la loro aria glaciale e sdegnosa. Esse compivano quell'ufficio gratuitamente come se si degnassero di fare la carità della loro assistenza alle ragazze povere. Esse occupavano le loro lunghe giornate vuote a girare per le scuole portandovi la superbia dei loro vestiti di seta, dei loro orecchini di brillanti. Esse applicavano la loro nullaggine a seccare alunne, professori e maestre con osservazioni saccenti, con dispute bizantine. Erano detestate perché non erano né buone né pietose né utili a nulla, ma bisognava fingere di rispettarle, se no andavano dal provveditore, scrivevano al ministro, mettendo il mondo a soqquadro come due gazze. Onde quell'apparizione equivalse a quella di una duplice testa di Medusa, la stessa maestra si confuse. Non si lavora molto, mi pare, osservò la gobba con il tono acre della zitella schiattosa. Oh, da un pezzo queste signorine non si danno pensiero del cucito, continuò la marchesa, pedante. Esse vogliono diventare troppo sapienti. Il programma è un po' pesante, osò dire la maestra. Se continua così noi riferiremo, disse la gobba. Noi riferiremo, confermò la marchesa saccente. E principiarono il giro nella classe. In fretta molte tavolette erano state arrovesciate per fingere che si cucisse. Lei, Borrelli, perché non cuce? Chiese la gobba dal mento pieno di peli bigi. Io sono dispensata dal cucito per malattia agli occhi. Dove sta il certificato? A casa, naturalmente, un altro l'ha il direttore. Se si fanno fare tutto il certificato, bisognerà riferire. E passarono avanti. Signorina Mazza, lei cuce senza anello da cucire? L'ho perso, signora ispettrice. Lei si bucherà il dito e potrebbe essere più attenta ai suoi arnesi. Luisetta d'Este tossiva, come se affogasse. Vedendo entrare le ispettrici, aveva ingoiato un grosso pezzo di pane e un pezzetto di provola per traverso e rossa, con le lacrime negli occhi, si schiantava a tossire. Che ce l'ha sempre questa tosse? Cronica? domandò la vecchia gobba. No, per grazia di Dio, ribatté quella fra gli schianti, non ho mica 50 anni io. Signorina Vetromile, com'è che l'adopera il filo nostrano? Non lo sa che deve adoperare il filo inglese? Che trascuranza è questa? Ah, proprio, proprio non ci vogliono dare importanza ai lavori donneschi. Vedranno, vedranno agli esami che fioritura di riprovazioni. E le due noiose, dal cervello meschino e dal cuore inerte di donne senza maternità, le due donne inutili e tormentatrici, passo passo, alunna per alunna, trovarono modo di fare qualche osservazione acerba, qualche personalità offensiva. Alunna per alunna, esse le contristarono tutte con la frase, con l'intonazione, con l'uso sempre più posto in evidenza dei loro vestiti, con certe squadrature da capo ai piedi, con certe smorfie di nausea, con certi cenni altieri del capo, con certi gesti eleganti delle mani. Quella visita fu tutta un'amarezza. Quelle che contavano studiare non potettero. Le affamate dovettero rinunziare alla colazione, avendola sotto il banco nascosta senza poterla mangiare. Quelle che cucivano, perfino le zelanti furono amareggiate per gli aghi, per il sopragitto, per le filze. Finanche Isabella Diaz, che rammendava un brano di castoro, lavoro delicatissimo, fu criticata per il modo come tirava il punto. E la gobba, dal mento peloso, ne guardò la parrucca con un disprezzo profondo. Sulla porta, la marchesa, con voce cattedratica, pronunziò un fervorino ricordando a quelle fanciulle che la loro triste condizione le obbligava a fare le maestre che non avessero la superbia di credersi indipendenti e libere e che cercassero di conciliarsi l'indulgenza delle persone importanti e rispettabili, le quali si sacrificavano per loro che in fondo erano tanto ingrate. La faccia di De Vincentis era molto arcigna quel giorno. Con la primavera gli umori acri gli avevano assalito gli occhi e lo avevano costretto a non smettere mai gli occhiali azzurri e i dolori dell'artrite erano penetrati nelle ossa. Egli zoppicava, appoggiandosi a un bastone, tutto avvolto in un grosso cappotto di lana, con una sciarpa di lana al collo e alle mani i guanti di castoro foderati di flanella. Per la contrazione nervosa, il lungo pizzo, pepe e sale si muoveva, ma le ragazze non ne avevano molta paura quel giorno. La lunga e difficile lezione sulla radice quadrata, tutte o quasi tutte la sapevano, tanto egli l'aveva chiaramente spiegata con la sua precisione di matematico. E per l'importanza della lezione, da dover dire, e per vederlo così affannato, così malaticcio, una certa sicurezza mista di pietà nasceva nel loro animo. Sicurezza che poco tempo sarebbe a lui rimasto per spiegare la nuova lezione e che forse, non sentendosi bene, non ne avrebbe neppure profittato. Questo le rincuorava perché se avesse assegnato molta roba nuova per 2 giorni dopo, giammai avrebbero potuto impararla. Mancava il tempo, sarebbe stato un disastro. Dolcemente, Iudicone gli chiese come si sentisse. Gli offrì il berretto di lana per la testa già un po' calva e gli soffriva assai, si vedeva, ma si vinceva. Neppure il pizzo aveva più quel moto nervoso. Quando chiamò De Sanctis a dire la lezione, costei si alzò tutta vivace, andò alla lavagna, volle dimostrare il teorema. Il professore la interruppe sul principio dicendole seccamente basta e chiamandone un'altra. Così per la seconda, per la terza, per la quarta, appena egli si accorgeva che la lezione la sapeva, interrompeva l'alunna e la rimandava al posto. Le altre cominciavano a guardarsi in viso sgomente. Il loro piano innocente falliva, le loro previsioni erano disperse, quasi quasi desideravano che la chiamata non sapesse la lezione, che incespicasse, che il professore gliela facesse dire tutta per correggerla. Ma che? La classe era in un momento di felicità aritmetica. Il professore ascoltava, quasi sorridente, nella consolazione del suo cervello algebrico e del suo cuore di docente. Alle 2, quando ancora ci voleva un'ora per finire la lezione e la scuola, tutto era detto. Le alunne esterrefatte videro alzarsi quel vecchietto tutto contorto dall'artrite, tutto ravvolto nelle sue lane, cavare una mano tutta nodosa e rossa dal guanto, scrivere una lunga formula aritmetica sulla lavagna. Udirono una forte pronunzia cilentana che cambiava il D in R, metteva un G dannanzi a ogni E, enunciare il teorema fondamentale della terza potenza. Il cubo di un numero diviso in due parti è uguale al cubo della prima parte, il doppio prodotto della prima per la seconda, il doppio prodotto della seconda per la prima, cubo della seconda parte. E da quel cumulo di ossa sconquassate, da quella testa i cui occhi poco vedevano più, da quella mano disfatta, contraffatta, da quel cervello tanto lucido che nulla poteva vincere, uscì per un'ora una dimostrazione precisa, insistente, continua, sempre più complicante ed esplicante le formule e le sottoformule del teorema. La lavagna era piena zeppa di cifre, di segni aritmetici, di radicali, di lettere. Sulla fine gli dovette restringere il carattere, non c'entrava più. La malattia non gli cavava un lamento, non gli infliggeva una sospensione, egli andava come un vecchio meccanismo la cui ruota fondamentale è ancora solida. Egli si fermò quando suonarono le tre all'orologio e la campana suonò la chiusura della scuola. Si fermò ed uscì. Esse non uscivano, guardavano la lavagna, inebetite, accasciate. 3. Fingevano chi la tranquillità, chi la disinvoltura, chi un'indifferenza assoluta. Tutte fingevano come meglio sapevano e potevano per nascondere la paura, l'inquietudine, la tristezza, la nervosità. Riunite in due o tre gruppi, sedute a caso sui banchi in disordine nella sala del terzo corso, esse fingevano di ammirarsi scambievolmente, una per il vestito nuovo tagliato e cucito in casa, l'altra per una mantellina di trina fatta ad applicazione, l'altra per il cappellino nuovo che costava in tutto 9,50 lire. La quarta per certa sciarpetta ricamata nei piccoli, brevissimi intervalli di ozio. Parlavano dei bagni di mare a Santa Lucia, al Chiatamone, alla Riviera di Chiaia, a Posillipo. Combinavano delle comitive per spendere meno e per divertirsi di più. Ogni camerino costa un franco. Diviso per quattro si tratta di 5 soldi al giorno per ognuna e si va a piedi, che importa. Parlavano del grande divertimento estivo, serotino ed economico, che è il desiderio delle fanciulle borghesi napoletane. La villa col gas, con la musica, con la folla delle ragazze e dei giovanotti, con le sedie di ferro che costano un soldo, e il mare e la luna che non costano niente. Sì, cercavano di avere l'aria disinvolta, ma sotto tutti quei sorrisi il tormento trapelava. Sotto quei discorsi di vestiti, di bagni, di seratine, trapelava il pensiero angoscioso, l'altro, quello per cui nessuna di loro aveva dormito alla notte, quello per cui si erano affaticate 8 mesi e per cui negli ultimi 2 mesi estivi, giugno e luglio, avevano sgobbato dalla mattina alla sera sui libri, sui quaderni, sui sunti, sulle formule. Il pensiero profondo e dominante per cui in quel giorno, chiamate in scuola alle 9, si erano alzate alle 6, erano uscite di casa alle 7 e dopo molti giri di passeggiata erano tutte capitate lì alle 8, un'ora prima. Quello era il giorno dell'esame orale, del diploma superiore, e l'esame era il pensiero pauroso, angoscioso, profondo e dominante. Tanto che non reggendo a lungo la finzione in quelle anime giovanette, involontariamente, non vergognandosi più, nella comune inquietudine ognuna si abbandonò alla propria. Pallida e sgomenta, Annina Casale, appoggiata ai vetri della finestra, guardava nel cortile senza vedere e Caterina Borrelli, la sua prepotente amica, per darle coraggio la sgridava. «Sei una stupida ad aver paura! Non hai studiato tutto l'anno! Di che ti spaventi?» «Di tutto!» E tu fa una cosa, pensa che gli esaminatori di là ne sanno tutti meno di te, ci pensi? Cerca di convincertene e non avrai più paura, hai capito? Sì, ma non lo penso. Allora pensane un'altra, riproveranno anche me, faremo l'esame di riparazione insieme, ci prepareremo insieme. Ma che, vuoi che ti riprovino te che sei così brava e così ardita? Ti giuro che mi riproveranno, Nanni, ho un cattivo presentimento. Altrove, parlando a voce bassa, ognuna narrava il proprio terrore speciale. La pedagogia. La pedagogia, certo sono riprovata in pedagogia, diceva De Sanctis, come se parlasse a se stessa. Non l'ho mai capita. Ci ho perduto sopra ore e ore, anche questa notte non ho dormito per ripassare tutto il volume. E se mi domanda i metodi di lettura, che gli rispondo? Io non so nulla, né dei giardini d'infanzia, né del sistema simultaneo. Per me le difficoltà sono le scienze fisiche, soggiungeva Carolina Mazza. È uno studio troppo complicato. Per imparare bene l'ottica si dimentica l'acustica. Oh, l'elettricità poi vi confonde la testa e non si capisce più nulla. E io sono sempre stata sfortunata per la storia, esclamava Mercanti. Scommetto che mi domandano le crociate, quelle maledette crociate. Quante sono state? 9, 15, 34? E l'aritmetica? L'aritmetica vi pare una cosa da scherzo? Chiese Luisetta d'Este, sorridendo amaramente. Oddio, l'aritmetica! Ripeterono in coro quattro o cinque di cui lo sgomento cresceva. Intorno a Checchina Vetromile altre si erano riunite e incalzate dall'incubo dell'esame, con la testa vuota a furia di aver troppo studiato, si chiedevano e si davano certe ultime spiegazioni. Di lettere italiane, di geometria, di chimica, finendo di stordirsi. Checchina Vetromile aveva descritto a Cleofe Santaniello il termometro minutamente, la Pessenda aveva due volte raccontato a Emilia Scoppa la scalata di Carlo VIII in Italia, Scapolatiello presso la Lavagna aveva fatto vedere a Carmella Fiorillo come si trova il raggio minore del tronco di cono, e quelle che ascoltavano assorte come in sogno ripetevano balbettando la spiegazione. Sola in un angolo, Giustina Marangiò, già uscita di collegio, già vestita di nuovo, si dondolava sopra una sedia canticchiando. Sola in un cantuccio, Isabella Diaz, che aveva ricucito dei nastri ritinti in verde al suo vecchio cappello, stringeva nelle mani la sua borsetta. Poi, come suonavano le 9, un silenzio si fece. La bidella, Rosa, comparve sotto la porta con una carta in mano e lesse i primi quattro nomi. Abbamonte, Barraco, Bellezza, Borrelli. All'esame.